Capitolo 42. Primo settembre. Nessuna traccia del signor Huntington ancora. Può darsi che decida di fermarsi con gli amici fino a Natale, per poi partire di nuovo la prossima primavera. Se continua così potrei vivere abbastanza bene a Grassdale, o anche semplicemente restarci, che sarebbe già molto. Potrei tollerare anche di ospitare qualcuno dei suoi amici per la caccia. Se il piccolo Arthur è abbastanza affezionato a me e dimostra di avere acquisito più giudizio prima che arrivino, perché io possa difenderlo dal loro contagio peccaminoso con l'aiuto della ragione e della tenerezza. Anche se, temo, sarà difficile. Nel frattempo, almeno finché non mi troverò a vivere le difficoltà di un momento simile, cercherò di non pensare al mio rifugio all'interno della nostra vecchia villa di famiglia. Gli Hattersley sono venuti al Grove, dove sono rimasti per un paio di settimane. Il signor Hargrave non c'era e il tempo era più che favorevole, quindi non ho lasciato passare un solo giorno senza incontrarmi con le mie amiche Millicent ed Esther, a casa loro o qui da me. Un giorno il signor Hattersley le ha accompagnate a Grassdale con il phaeton, portando anche i piccoli Helen e Ralph. Mentre tutti erano impegnati a giocare in giardino, ho avuto un breve scambio con quel gentiluomo. «Non volete sapere nulla di vostro marito, signora Huntington?» mi ha chiesto. «No, a meno che non sia per chiedervi quando prevede di tornare.» «Non lo so, non lo volete tra i piedi, vero?» mi ha domandato con un sorriso sarcastico. «No.» «Beh, immagino che stiate molto meglio senza di lui.» Personalmente mi ha stufato. L'ho avvisato che l'avrei lasciato se non avesse cominciato a rigar dritto, ma non ha voluto darmi ascolto e allora me ne sono andato. Come vedete, sono un uomo migliore di quel che credevate. Vi dirò che ho intenzione di lasciarmi tutto alle spalle, lui e la nostra combriccola, e sforzarmi da questo momento in poi di comportarmi in modo rispettabile e moderato, come si conviene a un buon cristiano e a un padre di famiglia. Che ne dite? Dico che avreste dovuto prendere questa decisione già da molto tempo. Beh, in fondo non ho ancora 30 anni, forse non è troppo tardi. Certo, non è mai troppo tardi per ravvedersi, basta volerlo e averne la forza. A essere sinceri, l'avevo già pensato spesso altre volte in passato. Ma Huntington è così diabolicamente simpatico, non immaginereste com'è divertente la sua compagnia quando non è completamente sbronzo, ma solo un po' alticcio. In fondo gli vogliamo tutti bene, anche se non lo stimiamo. Vi piacerebbe essere come lui? No, meglio essere me stesso, anche marcio come sono. Non potreste restare marcio come siete senza diventare ogni giorno un po' peggio, e quindi ogni giorno un po' più simile a lui. Accolse questa mia affermazione con un'espressione confusa e al tempo stesso irata, così comica che non potei fare a meno di ridere. Ah, dovete scusarmi, ma la mia schiettezza è animata dalle migliori intenzioni. Vi piacerebbe che i vostri figli da grandi fossero come il signor Huntington o come voi? Accidenti, no. Vi piacerebbe se vostra figlia vi disprezzasse o che non mostrasse nei vostri confronti alcun rispetto né affetto? Oh, no, non lo potrei sopportare. E vi piacerebbe se vostra moglie provasse il desiderio di sparire sottoterra al solo sentir pronunciare il vostro nome, o che tremasse vedendovi avvicinarvi a lei? Ah, impossibile, lei mi adora. Signor Hattersley, confondete la sua condiscendenza con l'affetto. Fulmini e saette. Ah, non agitatevi tanto. Non sto dicendo che non vi ama, poiché in vero vi ama molto più di quanto meritereste. Tuttavia so anche che se la vostra condotta fosse migliore, vi amerebbe anche di più. E che se la vostra condotta fosse peggiore, vi amerebbe sempre meno, finché nel suo cuore resterebbero solo paura, repulsione e tristezza, e nel profondo forse anche odio e disprezzo. Ma, affetto a parte, desiderate davvero tiranneggiare vostra moglie sottraendole ogni raggio di sole e rendendola completamente infelice? Certamente no, non lo desidero, né mai lo potrò desiderare. Sappiate allora che vi siete già portato avanti abbastanza in questo senso. Ma Millicent è diversa da come la immaginate, non è così apprensiva e vulnerabile. È piuttosto una creatura condiscendente, mite, affettuosa, talvolta portata alla malinconia, ma tutto sommato serena, disposta a prendere le cose come vengono. Pensate a com'era quando l'avete sposata 5 anni fa e a com'è diventata. Eh sì, era una ragazza florida allora, con una bella carnagione bianca e rosa, mentre ora appare consumata e scioccata. Ma accidenti, non è certo colpa mia. Ah no? E come lo spiegate allora? Certo non può dipendere dall'età, dato che ha solo 25 anni. Ma sarà la costituzione delicata? Che diamine, perché mi avete preso? E poi ci sono i bambini che la preoccupano tanto. Vi sbagliate, signor Hattersley. I bambini sono più un piacere che una croce per lei. Sono bambini deliziosi, buoni, che Dio li benedica, lo so. Perché dunque incolpare loro? Vi dirò io qual è la causa, la costante angoscia che prova a causa vostra, consumandosi e preoccupandosi continuamente per voi, mista alla paura. Se la vostra condotta è buona, Millicent è sollevata, ma dentro continua a tremare perché non ritiene saldi né degni di fiducia i principi che ispirano suo marito. E vive con la continua paura che quella felicità possa finire. Se la vostra condotta è cattiva, Millicent vive in una condizione di terrore e infelicità che nessuno può capire eccetto io. Sopporta questa terribile condizione con grande pazienza, ma dimentica che far notare al prossimo i suoi errori è un nostro dovere. Voi, signor Hattersley, scambiate dunque il silenzio di vostra moglie per accettazione. Ma se volete seguirmi vi mostrerò un paio di lettere. Spero di non farle torto, dato che siete il suo compagno. Mi seguì in biblioteca. Gli diedi due lettere che mi aveva scritto Millicent, una da Londra, durante una delle stagioni più selvaggiamente trasgressive del marito, e l'altra dalla campagna in un intermezzo di sobrietà. Nella prima si diceva afflitta e angosciata. Non lo accusava, ma era molto triste e amareggiata dalla relazione che intratteneva con i suoi viziosi compagni. Ce l'aveva con Grimsby, così come con gli altri, faceva pesanti insinuazioni nei confronti di Huntington, attribuendo la colpa della cattiva condotta di suo marito soprattutto agli altri. Nella seconda, invece, era gioiosa e fiduciosa, sebbene conscia che quella felicità non sarebbe durata a lungo. Lodava la bontà di suo marito, ma si intuiva che avrebbe preferito che tale bontà si fondasse su qualcosa di più saldo che non la naturale inclinazione del cuore. Ed esprimeva il timore, quasi profetico, che quella casa, costruita sulla sabbia, potesse crollare. Cosa che in effetti avvenne di lì a poco, come Hattersley senz'altro ricordava mentre leggeva quella lettera. All'inizio della prima lettera fui sorpresa di vederlo arrossire, ma poi si voltò subito e andò a finire di leggerla alla finestra. Durante la lettura della seconda notai che alzava la mano un paio di volte e se la passava velocemente sul viso. Era forse per asciugarsi una lacrima? Quando le ebbe lette entrambe si schiarì la gola e restò un istante a guardare fuori dalla finestra. Fischiettò qualcosa e infine si girò. Mi rese le lettere e mi prese la mano. Mi sono comportato come una canaglia, Dio mi è testimone, disse stringendomi la mano. Ma state a vedere se non mi ravvedo, che io sia maledetto se non lo faccio. Ah, oh, non maleditevi da solo, signor Hattersley. Se Dio avesse prestato ascolto anche solo a metà delle vostre imprecazioni, vi trovereste già da tempo all'inferno. Non è comportandovi in futuro secondo il vostro dovere che potete pensare di riparare al passato. Comportarvi secondo il vostro dovere è quel che Dio vi chiede. Dovrà essere qualcun altro a riparare gli errori che avete commesso in passato. Quindi, se davvero volete redimervi, invocate la benedizione di Dio, la sua pietà, il suo conforto, non la sua maledizione. Che Dio mi aiuti allora, perché ne avrò di sicuro bisogno. Millicent, dov'è? Eccola, sta entrando in casa proprio ora con la sorella. Uscii dalla stanza per andar loro incontro e io lo seguii con lo sguardo. Sorprese la moglie prendendola in braccio e dandole un bacio appassionato. Poi le mise le mani sulle spalle e immagino le raccontò quali fossero le sue intenzioni, dato che lei all'improvviso lo abbracciò forte e gli disse piangendo: Oh Ralph, sì, saremo così felici, come sei buono. Non devi ringraziare me, disse lui facendole fare un mezzo giro nella mia direzione. Ma lei, poiché è tutto merito suo. Millicent corse ad abbracciarmi, piena di gratitudine, ma non volli pregiarmi dell'onore. Le spiegai che suo marito era già pronto a redimersi, prima ancora che lo incoraggiassi nel mio piccolo, facendo ciò che avrebbe potuto, anzi dovuto fare lei stessa. Oh no, Io non sarei mai riuscita a convincerlo con le parole, disse lei. L'avrei solo irritato con i miei goffi tentativi. Ma tuttavia non mi hai mai messo alla prova, Millie, le disse lui. Ripartirono poco dopo. Al momento si trovano in visita dal padre di Hattersley e poi torneranno a casa loro in campagna. Mi auguro che le buone intenzioni del signor Hattersley non vengano meno e che la mia cara Millicent non sia di nuovo delusa. Nella sua ultima lettera mi ha scritto di essere felice e di sperare in meglio per il futuro, ma del resto la virtù e la risolutezza di lui non sono ancora state messe alla prova da alcuna tentazione. D'ora in avanti, comunque, sono certa che lei sarà meno timida e lui più premuroso. Di sicuro le sue non sono speranze infondate e io ho almeno un punto luminoso su cui fissare i miei pensieri. Capitolo 43. 10 ottobre. Huntington è rientrato da circa 3 settimane. Non voglio perdere tempo a descrivere il suo aspetto, le sue maniere, la sua conversazione, né i miei sentimenti nei suoi confronti. Il giorno dopo essere tornato mi colse alla sprovvista annunciandomi di voler assumere un'istitutrice per il piccolo Arthur. Gli risposi che era inutile e sciocco per il momento, dato che giudicavo di essere io stessa in grado di occuparmi della sua istruzione ancora per qualche anno. Inoltre l'educazione del bambino era la mia unica ragione di vita, gli dissi, avendomi lui privata di qualsiasi altra piacevole occupazione. Mi rispose che non pensava fossi adatta a educare i bambini né a stare con loro. Avevo ridotto nostro figlio a un automa, rovinando il suo carattere con la mia rigidità. E senz'altro di questo passo avrei raggelato anche il calore del suo cuore, rendendolo un ragazzo chiuso e simile a me. Anche la povera Rachel ebbe la sua buona dose di insulti. Huntington non la sopporta perché sa quale opinione ha di lui. Difesi le nostre capacità di balia e di maestra, obiettando sulla sua proposta. Lui però chiuse il discorso, dicendo che era inutile continuare a parlarne, dato che aveva già assunto un'istitutrice di cui aspettava l'arrivo la settimana dopo. Io non dovevo far altro che prepararmi ad accoglierla. Questa notizia mi turbò e mi permisi di domandargli come si chiamasse, da dove venisse, chi gliel'avesse raccomandata o come l'avesse scelta. È una ragazza giovane e degna, mi rispose. Non hai nulla da temere, si chiama Myers o qualcosa del genere. Me l'ha raccomandata una signora anziana che gode di grande rispetto nel mondo della Chiesa. Non l'ho mai incontrata di persona e non posso quindi darti altri dettagli circa il suo aspetto o la sua conversazione, ma se quanto mi ha detto quella vecchia è vero, vedrai che possiede tutti i requisiti necessari a coprire questo ruolo, tra cui una grande passione per i bambini. Parlò in tono serio e pacato, eppure una luce diabolica nei suoi occhi non prometteva nulla di buono. Io pensai subito al mio rifugio e non sollevai altre obiezioni. Quando la signorina Myers infine arrivò, non mi ero preparata a riceverla nel migliore dei modi. Non si può dire che il suo aspetto, le sue maniere e la condotta che dimostrò successivamente fossero volte a suscitare una prima impressione favorevole. Aveva una cultura limitata, un'intelligenza assolutamente nella media. Aveva una bella voce, cantava bene, accompagnandosi discretamente al pianoforte, ma queste erano le uniche qualità. C'era qualcosa di scaltro e insidioso nella sua espressione, nel suo tono di voce. Sembrava intimorita da me e la vedevo sussultare ogni volta che mi avvicinavo. Si comportava con rispetto e condiscendenza. All'inizio cercò in ogni modo di adularmi, ma la convinsi a smettere quasi subito. Il suo piccolo allievo le piaceva così tanto che fui costretta a rimproverarla per l'eccessiva indulgenza e le troppe lodi. Nonostante questo, non era ancora riuscita a conquistare il cuore del bambino. La sua devozione si limitava a qualche sospiro fatto levando gli occhi al cielo e qualche frase imparata a memoria. Mi disse di essere figlia di un parroco e di essere rimasta orfana, che era ancora una bambina, ed era poi stata accolta in una famiglia molto devota. Si mostrò così riconoscente per le attenzioni che gli aveva riservato la nostra famiglia, che mi rimproverai per i miei sospetti e i miei cattivi pensieri e per la mia scortesia, e mi ammorbidì per un po', ma non durò a lungo. La mia antipatia era ponderata, i miei sospetti ben fondati. Avevo il dovere di tenere gli occhi aperti finché tali sospetti non fossero crollati o confermati. Le chiesi di darmi il nome e l'indirizzo di quella famiglia tanto devota. Mi diede un nome piuttosto comune, un indirizzo lontano, e disse anche che ora si erano trasferiti tutti sul continente, ma dove di preciso lo ignorava. Con il signor Huntington non parlava quasi mai, ma lui si affacciava spesso nello studio per accertarsi che Arthur andasse d'accordo con lei. La sera stava con noi in salotto e spesso suonava e cantava per intrattenere lui o noi e si dimostrava molto attenta a esaudire le sue richieste, se non addirittura anticiparle, pur rivolgendosi soltanto a me, anche perché lui non era quasi mai in condizioni di comunicare. Se fosse stata una persona diversa, la sua presenza l'avrei vissuta come un sollievo, a parte il fatto che sarei stata molto a disagio se una persona per bene avesse visto Huntington ridotto nelle condizioni in cui versava spesso. Non parlai dei miei sospetti a Rachel, ma avendo lei vissuto in questo mondo sofferente e peccaminoso, era di suo abbastanza sospettosa. Lei per prima mi disse, infatti, di essere diffidente nei confronti della nuova istitutrice e notai che non la perdeva d'occhio un istante, esattamente come me. La cosa mi faceva piacere perché volevo conoscere la verità. Grassdale ormai mi soffocava e non riuscivo a far altro che pensare a Wildfell Hall. Una mattina Rachel mi raggiunse in camera con una notizia tale che mi costrinse a decidermi su due piedi prima ancora che finisse di parlare. Le raccontai del mio piano mentre mi vestiva, dicendole in che modo mi avrebbe potuta aiutare, quali cose preparare per me e quali tenere per sé, invece, dato che non avevo altro modo di risarcirla del licenziamento improvviso dopo il suo lungo e fedele servizio. Mi rincresceva, certo, ma era inevitabile. Cosa farai poi? Tornerai a casa tua o cercherai un nuovo impiego? Non ho una casa, signora, se non la vostra. Se me ne vado, non ne cercherò un'altra finché vivo. Ma io non sono nelle condizioni di poter vivere come una signora. Dovrò farmi da domestica da sola ed essere io stessa la balia del mio bambino. Ma come parlate? Mi disse con una certa veemenza. Vi servirà pure qualcuno che pulisca, che lavi e cucini, e posso farlo io. Non state a preoccuparvi del salario. Ho ancora qualcosa da parte in fondo, che comunque spenderei se mi lasciaste perché dovrei usarlo per pagarmi un affitto ed evitare di andare a lavorare da estranei, circostanza che vorrei davvero evitare. Approfittatene, signora. Lo disse con voce tremante e con le lacrime agli occhi. Oh, lo vorrei tantissimo, Rachel, e vorrei offrirti un salario dignitoso, ma non capisci che ti trascinerei con me alla rovina senza che tu abbia fatto nulla per meritarlo? Ah, scempiaggini, disse. Vivrò in un modo completamente diverso da prima, da quello a cui sei abituata ora. Oh, credete che non sarei capace di sopportare quel che sopporta la mia signora e il mio signorino, che Dio lo benedica? Non sono così altezzosa e incontentabile. Io sono giovane, Rachel, ce la farò, e anche Arthur non sarà niente per lui. Non sono ancora tanto vecchia da non reggere un po' di fatica, se serve ad aiutare a star vicino a quelli che ho amato come figli miei. Sono troppo vecchia, invece, per pensare di lasciarli al loro destino e di finire io stessa tra estranei. E così sia, allora, dissi io abbracciandola. Ce ne andremo insieme e tu proverai una vita tutta nuova. Che Dio vi benedica, cara, rispose lei, ricambiando il mio abbraccio. Lasciamo questa orribile casa dove sta e vedrete che ce la caveremo. Oh, ne sono convinta anche io, le dissi, e così avevamo deciso. Approfittai della posta del mattino per mandare due righe a Frederick e chiedergli di preparare il nostro rifugio in fretta, dato che l'avrei probabilmente raggiunto di lì a un giorno, dal momento in cui avesse ricevuto quel messaggio, spiegandogli brevemente cosa mi avesse spinto a una così rapida decisione. Poi scrissi tre lettere di addio. La prima a Esther Hargrave. Le spiegai che non mi era possibile trattenermi ancora a Grassdale e lasciare mio figlio sotto l'influenza del padre e che la mia futura destinazione doveva assolutamente restare ignota, sia a lui sia a tutte le persone che conosceva. L'avrei rivelata solo a mio fratello, tramite il quale speravo che avrei potuto ancora corrispondere con i miei amici. Le ho lasciato l'indirizzo di Frederick e le ho chiesto di scrivermi spesso. Ho ribadito alcuni dei consigli che già le avevo dato circa la sua situazione. E poi l'ho salutata. La seconda la scrissi a Millicent, dicendole grosso modo le stesse cose, ma in tono più confidenziale, già che eravamo amiche intime è di lunga data e anche essendo lei più matura e più addentro alla mia situazione personale. Lasciai la lettera per la zia, per ultima. Tanto mi era difficile e doloroso scriverle. Ma sentivo comunque di doverle una spiegazione rispetto al grande passo che mi accingevo a compiere. E dovevo farlo, anche perché gli zii avrebbero saputo della mia scomparsa a stretto giro. Sarebbero stati i primi a cui Huntington si sarebbe rivolto per sapere dove fossi finita. Le dissi che comprendevo bene il mio errore, che non mi lamentavo per quella punizione e che mi dispiaceva causare un simile dolore a chi mi voleva bene, ma che per amore nei confronti di mio figlio non potevo, nella maniera più assoluta, continuare a sopportare una simile situazione, dato che era urgente sottrarlo al più presto all'influenza negativa del padre. Non avrei rivelato neppure a loro dove saremmo andati, perché potessero lei e lo zio negare di saperlo in modo credibile. Le dissi però di scrivermi attraverso mio fratello che mi avrebbe poi recapitato la lettera. Speravo, aggiunsi, che mi perdonassero quel gesto, perché se fossero stati al corrente di ogni cosa non avrebbero potuto biasimarmi e che non soffrissero troppo per me, dato che se fossi riuscita a raggiungere serenamente la mia destinazione e mantenerla sicura, sarei stata felice di vivere senza essere un peso per nessuno, nell'oscurità, dedicandomi a educare mio figlio e a insegnargli come evitare gli sbagli commessi da entrambi i suoi genitori. Da ieri è tutto pronto. Ho lavorato ai preparativi per 2 giorni, in modo che a Frederick restasse tutto il tempo per preparare il nostro rifugio e a Rachel quello di preparare i bagagli. Anche perché quest'ultima è una faccenda da sbrigarsi con grande discrezione e cautela, e l'unica persona che può aiutarla sono io, che sono in grado di mettere da parte quel che va preso, ma non so proprio come fare a sistemarlo in modo che occupi il minor spazio possibile all'interno delle scatole. E oltre alle mie cose ci sono anche le sue, quelle di Arthur. Non posso permettermi di lasciare niente, considerando che sono poverissima, a parte qualche moneta, e come ha osservato Rachel, quel che resta diventerà automaticamente proprietà della signorina Mears, e l'idea non mi va affatto. È stato difficilissimo restare calma in questi 2 giorni, mostrarmi tranquilla come al solito quando l'incontravo e accettare di lasciare mio figlio con lei per lunghe ore. Ora, spero che le mie pene siano finite per sempre. L'ho messo a dormire nel mio letto, per sicurezza. Le sue labbra non saranno più sporcate dai loro baci, né le sue orecchie costrette a sentire le loro parole. Ce la faremo. Come vorrei che fosse già mattina, che fossimo già in viaggio. Ho finito di aiutare Rachel come potevo e non mi restava altro che aspettare, sperare e tremare. Sono scesa a cena, ma non avevo appetito e il signor Huntington se n'è accorto. Che ti prende? Ha chiesto vedendo che facevo portare via il piatto. Mi sento poco bene, gli ho detto. Andrò a stendermi per un po'. Spero che tu non senta troppo la mia mancanza. Ah, neanche un po'. Se lasci la sedia vuota a me non cambia nulla. Anzi, è persino meglio, ha risposto mentre lasciavo la stanza. Preferirei che ci si sedesse qualcun altro. Ci si potrà sedere domani stesso, ho pensato, senza dirlo. E questa è l'ultima volta che ti vedo, spero. Ho mormorato, chiudendomi la porta alle spalle. Rachel ha insistito perché andassi subito a riposare per essere in forze e affrontare al meglio il viaggio di domani, dato che partiremo prima dell'alba. Ma ero in un tale stato di agitazione che addormentarmi sarebbe stato impensabile. Così come non potevo stare seduta a contare i minuti, con l'angoscia che mi assaliva ogni più piccolo rumore, per la paura che qualcuno ci scoprisse all'ultimo momento. Allora ho cercato di leggere un libro, ma scorrevo le parole senza riuscire a fermare il pensiero su di esse. E allora ho pensato, perché non tornare alla vecchia abitudine e raccontare al diario gli ultimi avvenimenti? Così l'ho aperto e ho scritto, inizialmente con qualche difficoltà, il resoconto di qui sopra. Lentamente mi sono calmata e sono riuscita a far passare in questo modo diverse ore. L'ora si avvicina, gli occhi mi si chiudono e sento addosso una grande stanchezza. Pregherò perché Dio ci protegga e andrò a coricarmi per qualche ora di sonno e poi. Il piccolo Arthur è addormentato profondamente e la casa è avvolta nel silenzio. Nessuno ci vedrà. Benson ha legato le nostre scatole e le ha portate in silenzio di sotto per caricarle su un carro che le ha recapitate alla stazione delle carrozze. Ho fatto scrivere sulle targhette signora Graham, perché questo è il nome che userò in futuro, il nome che aveva mia madre prima di sposarsi e che sento per questo in parte già mio, dato che non oso riprendere quello che avevo un tempo.